637. Torta di noci. Noci sgusciate grammi 140, zucchero in polvere grammi 140, cioccolata in polvere o grattata grammi 140, cedro candito grammi 20, uova numero 4, odore di zucchero vanigliato. Pestate fini in un mortaio le noci insieme con lo zucchero. Poi versatele in un vaso per aggiungervi la cioccolata, l'odore della vaniglia, le uova, ponendo prima i rossi e poi le chiare montate, e per ultimo il candito tritato minutissimo. Prendete una teglia ove il dolce non riesca più alto di due dita, imburratela e cospargetela di pan grattato per cuocerla al forno o al forno da campagna a moderato calore. Dai miei commensali, questo è stato giudicato un dolce squisito.